Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Oggi si vota la fiducia sulla riforma del lavoro. L'articolo 18 non è l'alfa e l'omega della nostra riflessione, dice Poletti. A Milano intanto si svolge il vertice europeo sull'occupazione. Nel capoluogo lombardo la manifestazione della FIOM. Landini dice: occuperemo le fabbriche. Contro di me è una violenza inaudita, sono parole del ministro dell'interno Angelino Alfano dopo la circolare di ieri sulle nozze gay. In Spagna migliorano le condizioni dell'infermiera che ha contratto Ebola, sostiene di aver rispettato i protocolli, sono 5 gli altri casi sospetti. Prosegue la battaglia per la città al confine turco-siriano di Kobane, tensione su tutta la frontiera, si schianta un elicottero iracheno forse abbattuto da ISIS. Il Nobel per la chimica va a due scienziati americani e uno rumeno, le loro scoperte alla base dell'invenzione di un supermicroscopio. Inizia la fase finale dei mondiali di volley femminile a Milano, cariche le azzurre che questa sera incontrano gli Stati Uniti. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete scriverci, effettogiorno@radio24.it. Ancora una volta in primo piano la riforma del mercato del lavoro che oggi arriva in aula per la fiducia. Sta parlando in questi minuti il ministro del lavoro Poletti. Ci colleghiamo con il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Il governo ha deciso, come ampiamente noto, di bruciare le tappe al Senato sulla delega sul lavoro. Tra breve ci sarà la richiesta di fiducia che sarà posta dall'esecutivo al termine dell'intervento del ministro del lavoro Poletti, che tra tante interruzioni e contestazioni dei 5 Stelle ha cercato di illustrare fino a qualche istante fa il maxiemendamento che riscrive il Jobs Act. In questo momento la seduta è sospesa. A seguire vi sarà il voto vero e proprio, tutto questo nel pomeriggio. Non si deve ridurre tutto all'articolo 18, comunque detto pochi istanti fa lo stesso Poletti. Ascoltiamo questo passaggio. Per il governo italiano è assolutamente centrale e prioritaria la delega lavoro in tutta la sua portata, non solo l'articolo 18, che ne rappresenta certo una parte significativa, ma che nelle nostre aspettative non è, come invece potrebbe apparire dalla discussione di queste settimane, una sorta di alfa omega della nostra riflessione. Io rispetto pienamente tutte le considerazioni che sono state svolte su questo argomento, considero forse eccessive le aspettative sia in senso positivo che negativo che vengono caricate su questo argomento, che è sicuramente rilevante ma meno decisivo di quanto si possa ritenere. Ma il dibattito di queste ore è proprio su cosa contenga in realtà il nuovo testo. Per molti quotidiani e commentatori non ci sarebbe nessun cenno all'articolo 18, voci queste che hanno spinto però Palazzo Chigi a precisare in mattinata come la delega attribuisca invece al governo il dovere di superare l'attuale sistema proprio dell'articolo 18 nella direzione indicata dal Presidente del Consiglio. Di sicuro nel Jobs Act ci saranno, Simone, sgravi per le assunzioni a tempo indeterminato, quest'ultima come forma privilegiata di contratto. Quanto al voto di fiducia, e chiudo, non dovrebbe riservare sorprese in quanto la stessa minoranza PD ha già annunciato che si esprimerà per il sì. No invece dalle opposizioni. È tutto, linea allo studio. E grazie al nostro Vincenzo Miglietta, e più avanti andremo a sentire Daniele Capezzone di Forza Italia per capire se nel caso invece un pezzo della minoranza faccia mancare il suo appoggio, siano disposti eventualmente a sostenere Renzi. Intanto c'è tutto un fronte sindacale a partire da oggi, da quello di piazza a Milano, il fronte della FIOM. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. E dunque, nel giorno della fiducia al Jobs Act, nel giorno in cui si riunisce il vertice UE sul lavoro, il leader della FIOM Landini, sfilando in corteo a Milano, lancia un duro avvertimento: siamo pronti a bloccare le fabbriche. Sono circa 2.000 lavoratori, ma anche studenti appartenenti a centri sociali, partiti questa mattina alle 10 nel capoluogo lombardo sotto la bandiera della FIOM. C'è stato anche qualche momento di tensione quando una trentina di manifestanti si è staccato dal corteo principale tentando di sfondare la zona rossa vicino alla sede del vertice. Poco fa ha preso la parola il segretario Maurizio Landini. Sentiamo. Se è necessario, lo dico già adesso, non solo ci mobilitiamo oggi, ci mobilitiamo la prossima settimana e il 25 siamo a Roma. La CGIL ha detto che c'è una riunione sabato che è pronta a proclamare lo sciopero generale. Bene, e lo vedremo. Noi abbiamo già il mandato e se è necessario lo sciopero generale lo proclamiamo anche come metalmeccanici. Posizione molto dura, quella di Fiom e CGIL, come sappiamo, rimasti da soli in trincea contro il governo, una divisione certificata anche dall'incontro di ieri a Palazzo Chigi. Più morbida invece la CISL, sindacato che tra l'altro proprio da pochi minuti ha ufficialmente un nuovo segretario. Anna Maria Furlan è stata eletta dal Consiglio Generale all'unanimità. Bonanni dunque lascia dopo 8 anni da segretario, ma prima di passare al testimone torna a commentare l'incontro di ieri. Se Renzi ha convocato il sindacato avrà avuto le sue buone ragioni. Vuol dire che cosa buona? Perché voltarci qualcosa. Dice allora non va bene perché voltarci qualcosa. No, se voltarci qualcosa va bene. Perché se voltarci qualcosa vuol dire che vuol trattare qualcosa. E grazie alla nostra Alessandra Schepisi per questi aggiornamenti. Come già ci accennava, è in corso, inizia oggi il vertice sull'occupazione a Milano. Il centro di tutto sarà nel pomeriggio. In diretta abbiamo il nostro Sergio Nava che sta seguendo i lavori e gli arrivi. Sergio, buongiorno. Sì, buongiorno. Qui al centro Milano Congressi stanno arrivando i ministri del lavoro, perché la prima parte del vertice è dedicata a loro. Non c'è ovviamente il ministro del lavoro italiano Poletti, che è impegnato in Senato. Sono nel frattempo arrivati un po' tutti i ministri del lavoro europei. In particolare hanno parlato la spagnola Fatima Báñez, che ha parlato soprattutto della necessità di rilanciare crescita e occupazione, arrivando all'obiettivo di un compromesso fra le politiche per la creazione di posti di lavoro in cambio di riforme. La Báñez ha auspicato un programma europeo per finanziare la crescita e uno sforzo particolare dei paesi che hanno i mezzi per stimolare l'impiego e la crescita. Il clou ci sarà intorno alle 15 con inizio vero e proprio il vertice con i leader. Ci sarà Matteo Renzi, il francese Hollande, la tedesca Merkel, insieme ai presidenti di Commissione Europea, Parlamento Europeo e anche del Consiglio Europeo. Conferenza stampa alle 18, difficile che usciranno a questo vertice impegni concreti, anche perché è una conferenza informale così come voluto dalla Germania, però il timing con quello che sta accadendo in Senato è molto importante per l'Italia. Staremo insomma a vedere nella linea a Milano. Grazie al nostro Sergio Nava che ci terrà aggiornati appunto nel corso di questo vertice. Noi passiamo a parlare di Ebola, perché dopo i nuovi casi sospetti l'infermiera contagiata dice: ho seguito i protocolli. Sentiamo. I numeri dicono questo: una contagiata certa, 5 casi sospetti, 50 persone sotto osservazione. La prima è Teresa Romero, un'infermiera della squadra sanitaria che il 26 settembre scorso si occupò dei 2 missionari deceduti per il virus. Tra i 5 c'è suo marito, oltre che un'altra infermiera di quella stessa squadra e un ingegnere spagnolo arrivato da poco dalla Nigeria. I 50 sotto osservazione hanno avuto contatti con la Romero. La paziente 44enne sta reagendo positivamente all'antivirale e ha detto di aver seguito correttamente il protocollo di sicurezza. Un elemento ulteriore per il centro di allerta ed emergenza del Ministero della Sanità, che sta indagando per capire come sia avvenuto il contagio. Le ipotesi sono molte e ci sono punti deboli nel procedimento di applicazione del protocollo, fanno sapere. Agiremo con totale trasparenza. Queste le parole del primo ministro Mariano Rajoy al congresso, che ha aggiunto: dobbiamo stare attenti ma tranquilli, visto che il contagio non è facile. Disperata invece la situazione in Sierra Leone, dove si parla di una media di 30 vittime al giorno. La popolazione è sempre più spaventata e il governo sta valutando un nuovo coprifuoco più lungo. Marcella Vezzoli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di questo torneremo a parlare più avanti con Giuseppe Ippolito, il direttore scientifico del reparto malattie infettive dello Spallanzani, che si sta occupando molto intensamente di Ebola. Vogliamo anche cercare di capire se sta avvenendo una mutazione nel virus. Adesso passiamo a parlare delle battaglie contro ISIS, perché è salito ad almeno 14 morti il bilancio degli scontri di ieri in Turchia nel corso di manifestazioni a sostegno della resistenza dei curdi siriani di Kobane, appunto contro ISIS. A Kobane nel frattempo prosegue la battaglia ed è notizia di poco fa che invece arriva dall'Iraq che un elicottero si è schiantato a circa 200 km a nord di Baghdad e tutti i membri dell'equipaggio sono morti. Un colonnello ha detto che le cause non sono state accertate, ma secondo abitanti dell'area il velivolo sarebbe stato abbattuto appunto dagli jihadisti di ISIS. Saluto Gianandrea Gagliani, direttore di analisi e difesa, commentatore del Sole 24 Ore. Gianandrea, bentornato. Grazie, buongiorno a voi, a te e agli ascoltatori. Con te vogliamo soffermarci sul ruolo della Turchia, perché il Parlamento turco ha votato un intervento, la possibilità di un intervento, appunto, visto che la guerra ce l'hanno sostanzialmente al confine, e però Washington li accusa di tentennare. Come potrebbe muoversi la Turchia a questo punto, come si diceva, avendo la guerra sulla sua frontiera? La Turchia la guerra sulla sua frontiera se l'è un po' andata a cercare, perché sono 3 anni che fa passare armi e miliziani per i gruppi che combattono Bashar Assad in Siria, incluso quei gruppi jihadisti che oggi sono confluiti nello Stato Islamico. Però è evidente che di fronte alla battaglia di Kobane la Turchia è l'unica potenza, l'unica forza in campo che è in grado di fare la differenza. Un intervento delle truppe turche che sono schierate al confine potrebbe salvare i curdi dall'attacco del califfato. Difficile che questo accada, nonostante che Erdogan continui a parlare della necessità di un'azione terrestre, perché per 2 ragioni. Prima, perché lo stesso Erdogan dice sì, ci vuole un'azione terrestre, ma che intervenga ad aiutare i curdi contro l'ISIS, ma soprattutto che intervenga e faccia cadere il regime di Bashar Assad, che però sul campo è quello che con maggiore determinazione sta combattendo insieme ai curdi contro l'ISIS stesso. E poi l'altro fattore importante: a combattere a Kobane con i curdi ci sono migliaia di quei miliziani del PKK, il partito curdo dei lavoratori, che per decenni ha dato filo da torcere proprio alla Turchia, pretendendo l'autonomia, l'indipendenza del Kurdistan turco. E ad Ankara, io ho il sospetto che ad Ankara siano in molti a non rammaricarsi del fatto che migliaia di combattenti curdi del PKK possano morire combattendo a Kobane contro l'ISIS. Grazie a Gianandrea Gaiani sempre per le sue analisi puntuali. Noi adesso torniamo alla politica, che si incrocia con la cronaca giudiziaria. Parliamo del processo Stato-mafia, dove a testimonianza di Napolitano, come sapete, come avete sentito dai nostri giornali radio e letto anche sui quotidiani, potrebbero assistere i boss mafiosi. Ma come nasce questa ipotesi? Sentiamo. Continua a far discutere il parere favorevole della Procura di Palermo alla presenza degli imputati del processo sulla trattativa Stato-mafia all'udienza del 28 ottobre prossimo, in cui verrà raccolta al Quirinale la testimonianza di Giorgio Napolitano. La decisione spetterà domani alla Corte d'Assise di Palermo. Un sì comporterebbe la partecipazione di persona dell'ex ministro Nicola Mancino, ma soprattutto quella in videoconferenza dei boss Riina e Bagarella. Quasi superfluo sottolineare l'eventuale imbarazzo istituzionale di una situazione che vede i capi mafia collegati in videoconferenza con il Colle, con il diritto di intervenire entrambi, peraltro in ogni momento, per rendere dichiarazioni spontanee. L'eventuale esclusione degli imputati, d'altra parte, potrebbe determinare la nullità dell'intero processo. Sull'interpretazione delle norme si è acceso il dibattito tra quelle che regolano la testimonianza del capo dello Stato e quelle sui diritti degli imputati. Il costituzionalista Michele Ainis: diciamo che il rischio di assistere a uno spettacolo in cui da un lato lo Stato processa l'antistato, ma in qualche modo l'antistato processa anche lo Stato, entra nel cuore dello Stato, entra nella stanza del Presidente della Repubblica, e ne può andare di mezzo il decoro, anche se è una parola un po' demodè, delle nostre istituzioni. Però d'altra parte le democrazie si alimentano attraverso la credibilità delle istituzioni. Forse sarebbe saggio cercare di trovare una soluzione mediana, per esempio, pur non ammettendo la presenza in video degli imputati mafiosi, ammettendo però, costruendo una loro possibilità di interlocuzione successiva. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È stato assegnato oggi il Nobel per la chimica. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2014 Nobel Prize in Chemistry to Dr. Erik Betzig at Howard Hughes Medical Institute, Ashburn, USA, Professor Stefan Hell at Max Planck Institute for Biophysical Chemistry, Göttingen, and the German Cancer Research Center, Heidelberg, Germany, and Professor William Murner at Stanford University, Stanford, USA. La microscopia fluorescente vince il premio Nobel 2014 per la chimica. Il riconoscimento va a Erik Betzig, classe 1960, americano, a William Murner, del 53, ricercatore alla Stanford University, a Stefan Hell, nato in Romania ma cittadino tedesco, che fa ricerca sulla prevenzione del cancro, alla Max Planck. La motivazione è quella di aver perfezionato la microscopia ottica, rendendo ghiandola talmente potente da rendere possibile osservare il mondo infinitamente piccolo delle molecole, cruciale per lo sviluppo delle nanotecnologie, si legge. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha motivato la scelta affermando che il lavoro degli scienziati ha condotto la microscopia ottica nella nanodimensione. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche di questo torneremo a parlare nella seconda parte di Effetto Giorno. Stiamo cercando un ricercatore dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che ha realizzato un super microscopio basato proprio su questi principi. Abbiamo in studio invece adesso il nostro Dario Ricci. Ciao Dario. Ciao Simone, ciao a tutti. Oh, non parliamo di calcio, parliamo di pallavolo. Oh, parliamo di pallavolo, però se vuoi ti parlo anche di Renzi, perché premier era proprio adesso al forum d'Assago a salutare le nostre azzurre che questa sera alle 20 scendono in campo contro gli Stati Uniti. Inizia la fase decisiva del mondiale che stiamo ospitando ormai da una ventina di giorni, due gironi a tre che qualificheranno quattro squadre alle semifinali incrociate. A noi nel sorteggio sono capitate le peggiori avversarie possibili, gli Stati Uniti appunto, che sono squadra emergente allenate dal miglior giocatore del secolo, quello che condivide con Lollo Bernardi questo titolo rispetto al XX secolo, cioè Karc Kiraly, l'unico atleta, pensa Simone, che ha vinto sia l'oro olimpico indoor sia nel beach volley, quindi una leggenda. E poi ci toccherà la Russia, quindi è importante vincere almeno una partita che vorrebbe dire qualificazione per la semifinale quasi certa. Appuntamento al forum alle 20 per Italia-Russia, prima però alle 17:30 Brasile-Cina, che è la partita dell'altro gironcino, quindi insomma si attende il tutto esaurito, grande spettacolo. Speriamo pure che il premier porti fortuna, perché è sempre un rischio per il politico andare a trovare una squadra alla vigilia. Alla vigilia di una partita. Mario certo, Monti andrò alla finale degli europei di calcio in Ucraina, ne prendemmo quattro dalla Spagna. Speriamo che non vada così. Grazie al nostro Dario Ricci. Traffico. Sulla riforma del lavoro oggi si vota la fiducia, caos in aula per le proteste del Movimento 5 Stelle, seduta sospesa. A Milano si svolge il vertice europeo sull'occupazione, nel capoluogo lombardo la manifestazione della FIOM. Landini dice: occuperemo le fabbriche. Contro di me una violenza inaudita, sono parole del ministro dell'interno Angelino Alfano dopo la circolare sulle nozze gay. In Spagna migliorano le condizioni dell'infermiera che ha contratto Ebola, sostiene di aver rispettato i protocolli, sono quattro gli altri casi sospetti. Prosegue la battaglia per la città al confine turco-siriano di Kobane, c'è tensione su tutta la frontiera, si schianta un elicottero iracheno forse abbattuto da ISIS. Il Nobel per la chimica, due scienziati americani e uno rumeno, le loro scoperte alla base dell'invenzione di un super microscopio. Daniele Capezzone di Forza Italia, presidente della Commissione Finanze alla Camera, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno. Allora, iniziamo dalla riforma del lavoro. Voglio capire se sareste disposti, nel caso che il suo partito non gli dia pieno appoggio, a dare voi appoggio a Renzi. Ma assolutamente no, perché la riforma del lavoro non c'è, è scritta sull'acqua. Dopo alcune settimane di parole in qualche caso condivisibili, sono arrivati i fatti che purtroppo sono molto deludenti. La montagna ha partorito un topolino, nel senso che torna non solo il reintegro, e questo è giusto, per il licenziamento discriminatorio, ma anche per quello disciplinare. Quindi si entra in una sfera di ambiguità per cui quello che si dice di voler far uscire dalla porta rientra dalla finestra. Quindi una riforma annacquata la giudicate sostanzialmente? È il solito compromesso che purtroppo perpetua una serie di scelte economiche del governo Renzi molto deludenti. È lui che ha confermato e ha aggravato la tassa sulla casa, è lui che ha aggravato la tassa sui risparmi, ora dopo molte parole giuste sul lavoro si ferma a metà strada e i dati di crescita temo non saranno brillanti nei prossimi mesi. Quindi lei dice giusti gli annunci, nel senso le intenzioni sembravano buone e però poi alla fine quel che è uscito fuori appunto è qualcosa che non vi soddisfa. E purtroppo il merito, come lei ha giustamente riassunto, è confermato dall'ambiguità anche nel metodo, perché mettendo la fiducia lui fa cadere tutti gli emendamenti. E negli emendamenti c'erano sia gli emendamenti nostri per abrogare davvero l'articolo 18, sia gli emendamenti di segno opposto della sinistra PD. Dinanzi a quegli emendamenti lui avrebbe dovuto dire con chiarezza se stava diciamo, con la sinistra PD o con i liberali del centrodestra che l'articolo 18 lo vogliono abrogare per davvero. Nel momento in cui lui blinda con la fiducia e mantiene il testo ambiguo, non sceglie né gli uni né gli altri, si tiene le mani libere per decreti delegati che saranno scritti chissà quando e chissà come. Senta Capezzone, tra un attimo arriveremo anche alle vicende che riguardano il suo partito, dove, come gli ascoltatori sanno, c'è stato un discreto scontro, almeno da quel che abbiamo appreso da retroscena e anche nelle dichiarazioni da quel che abbiamo letto. E però prima, dato che siamo sui temi economici, vorrei rimanere sul lavoro che state facendo alla Camera, perché la riforma del lavoro si vota al Senato in queste ore. Allora, ieri è stato approvato un emendamento che, se non erro, porta la sua firma per l'abolizione del bollo auto, almeno per i primi 3 anni, ho capito bene? È una mia proposta di legge che è stata approvata dalla mia commissione e che prevede che per le auto nuove non si paghi il bollo per 3 anni, addirittura per 5 anni se l'auto è green. È un primo segno di civiltà fiscale nei confronti degli automobilisti che sono trattati come un bancomat e, se mi permette, è anche un terzo successo che personalmente ho cercato di condurre in commissione dopo la riforma di Equitalia, per cui in questo paese non si pignora più la prima casa, i beni dell'azienda, eccetera, e soprattutto una delega fiscale che è piena di cose liberali, pro contribuenti e pro impresa, e che purtroppo però il governo non sta ancora sfruttando presto e bene. Lei dice non sta sfruttando appieno. C'è stato un voto bipartisan su questa sì, la ipotesi mia, di cancellazione la del bollo. Sì, sì, la proposta è la mia, ma do molto volentieri atto alla gran parte delle forze di maggioranza e anche di minoranza di aver scelto di convergere, quindi ne sono molto lieto. Quanto ci si mette a farla approvare definitivamente? Oh, e questa la battaglia. Io sto cercando, e davvero lo faccio in privato e lo faccio anche grazie a voi in pubblico, affinché già oggi la conferenza dei capigruppo della Camera la calendarizzi in aula per l'inizio della prossima settimana, quindi prima della sessione di bilancio. Se si percorre questa via veloce, questa può essere approvata dalla Camera in 7 giorni e poi andare al Senato nel mese e mezzo in cui la Camera si occuperà della legge di stabilità. Quindi se si sceglie questa via è un percorso super veloce, io mi auguro che nessuna forza politica si metta in traverso. Veniamo alle questioni che riguardano il suo partito politico, questo ufficio di presidenza, questa riunione che c'è stata e che abbiamo visto raccontata sui giornali con delle frasi durissime dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi nei confronti di Raffaele Fitto. Abbiamo letto addirittura di un Brunetta in lacrime, che cosa ci dice? No, guardi, al di là, diciamo, delle ricostruzioni così da retroscena, eccetera, è noto quello che è uscito, cioè l'onorevole Fitto ed io stesso ed altri amici riteniamo che in un partito si stia come in una famiglia dicendosi la verità, e se uno vuole bene a Forza Italia, a Silvio Berlusconi, gli deve dire quello che davvero pensa, e quello che noi pensiamo è che occorra una più chiara linea alternativa rispetto al governo, in particolare sui temi economici, in particolare sui temi fiscali, il che non vuol dire avere un atteggiamento di opposizione scatenata e preconcetta, ma rendere chiari agli elettori una linea liberale che è quella meno spese e meno tasse, sempre e senza eccezione. Sì, però non ho capito una cosa, se questa linea non viene intrapresa al partito sareste pronti ad andarvene lei e Fitto? No, ma chi se ne va? Ma scherziamo, questo è il nostro partito, qui stiamo e qui si resta, e anzi semmai registro il fatto positivo che ad esempio fino a 10 giorni fa si leggeva sui giornali, nei retroscena che lei citava prima, addirittura di ipotetici sostegni, ingressi di Forza Italia nella maggioranza. Oggi vedo che tutti gli esponenti del mio partito sono invece su una linea di chiara opposizione. Pensi anche alla riforma del lavoro, una settimana fa c'era chi, senza ancora avere visto la proposta del governo, diceva ma potremmo votarla, Fitto ed io dicevamo no, leggiamo le carte, temiamo che sia annacquata. Oggi vedo che tutti sono sulle nostre posizioni e questo mi fa molto piacere. Un'ultima domanda in 30 secondi, visto che è l'argomento che tratteremo tra un attimo. Lei è, si dice, liberale e non abbiamo motivo naturalmente di dubitarne, è un ex radicale. Io vorrei capire, e però è nel centrodestra, vorrei capire come giudica questa circolare del ministro Alfano sulle nozze gay. Come dire, le mie opinioni sull'argomento sono note, io sono un liberale, sono un laico, credo che debba esserci, come accade in tutti i paesi dell'Occidente avanzato il riconoscimento delle unioni civili per le coppie omosessuali e non, questo lo penso da ragazzino e non smetto di pensarlo ora, quanto all'iniziativa di Alfano non capisco, con tutti i problemi di sicurezza di cui il Ministero degli Interni dovrebbe occuparsi, che urgenza c'era ieri di aprire questa vertenza e questa polemica con i sindaci. La si smetta con questa polemica innescata in modo secondo me improvvido dal Ministro degli Interni, e invece se si vuole fare una cosa seria si discute in Parlamento in modo anche trasversale di una proposta di legge che sia orientata in base a quello che accade nella stragrande maggioranza dei paesi occidentali, cioè il riconoscimento di alcuni diritti civili per le coppie di fatto. Grazie a Daniele Capezzone, Presidente della Commissione Finanze della Camera di Forza Italia. E però adesso andiamo al punto di vista legale con Gianettore Gassani, Presidente dei Matrimonialisti Italiani. Gassani, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Senta, ma non c'è una legge che prevede espressamente che un matrimonio contratto all'estero debba essere appunto trascritto o riconosciuto in Italia? Ma quando si tratta di un matrimonio etero non ci sono assolutamente problemi, anzi addirittura in certi casi è obbligatorio. Quando si tratta di un matrimonio tra persone dello stesso sesso, questo non è possibile perché il nostro ordinamento giuridico attualmente non lo prevede, sebbene l'articolo 29 della Costituzione non parli espressamente di marito e moglie ma di coniugi, per cui i costituzionalisti in questo momento si stanno interrogando su come interpretare definitivamente la nostra carta costituzionale. E per quanto riguarda invece la legge che regola appunto il riconoscimento in Italia di un matrimonio contratto all'estero? Quello non c'è dubbio, la trascrizione del matrimonio straniero in Italia è un diritto dei cittadini stranieri o dell'italiano che ha sposato una persona straniera all'estero, però l'ufficiale dello Stato civile può, anzi in questo caso deve rifiutare la trascrizione di un matrimonio tra persone dello stesso sesso, il che non significa Italia debba stare al palo, però credo che Alfano fondamentalmente non abbia fatto altro che riportarsi a una legge. Altra questione è poi se nell'agenda politica non si debba affrontare questo problema, credo che vada affrontato assolutamente. Senta, e poi però quando magari succede come a Grosseto, che un ufficiale rifiuta di trascrivere il matrimonio e poi arriva un tribunale che gli dice no, guarda, lo devi trascrivere. Questo è un problema tutto italiano di prefetti, sindaci, tribunali, come se fossero delle repubbliche a sé, tutto questo non va bene, non si può agire a macchia di leopardo, ci vuole una legge nazionale che dia diritti a tutti, a prescindere se sei di Grosseto, Palermo o Milano. Anche questo francamente mi spaventa, che l'Italia debba invece correre ai ripari su questa lacuna. Le coppie omosessuali hanno il diritto di essere riconosciute, di avere la tutela dei diritti fondamentali. Possiamo valutare se è il caso adesso di parlare di matrimonio, ma possiamo tranquillamente parlare di Pax, di Dico e di quelle norme che servono a tutelare tutti gli amori, tutti i rapporti, senza fare distinzioni. Sul matrimonio credo che ci sarà molto a lavorare in questo paese, è un paese assolutamente conservatore, ma sulla tutela dei diritti civili non si deve scherzare, quindi non basta vietare la trascrizione dei matrimoni, ma bisogna poi almeno dare l'alternativa. Sì, cominciamo a ragionare sul riconoscimento delle coppie di fatto etero e omosessuali. Grazie a Gianettore Gassani, Presidente dei Matrimonialisti Italiani. Pausa, ci ritroviamo tra un attimo con la borsa. Sulla riforma del lavoro torna a parlare Renzi, dice non molliamo, a Senato avremo un risultato. Possono contestarci, aggiunge il Premier, ma cambieremo il Paese. Intanto è sospesa la seduta al Senato dopo le proteste del Movimento 5 Stelle. E a Milano si svolge il vertice europeo sull'occupazione, nel capoluogo lombardo la manifestazione FIOM, Landini dice occuperemo le fabbriche. Contro di me una violenza inaudita, dice il ministro dell'interno Alfano dopo la circolare sulle nozze gay. In Spagna migliorano le condizioni dell'infermiera che ha contratto Ebola, sono 5 gli altri casi sospetti. Il Nobel per la chimica, 2 scienziati americani e uno rumeno, le loro scoperte alla base dell'invenzione di un super microscopio. La borsa. Borse in diretta. In una giornata complessivamente negativa per i mercati europei, Parigi cede lo 0,2%, Francoforte lo 0,38%, Londra lo 0,18%, è positiva invece Milano con il FTSE MIB che guadagna lo 0,31% e il FTSE OSHER lo 0,17%. Isabella Tasso, Radio Corriere Sole 24 Ore, buongiorno e bentornata. Buongiorno. Come mai questa divergenza? Ma Milano vanno bene alcuni titoli bancari, in particolare le popolari, ed è questo che sostiene il listino, che fa comunque un guadagno limitato. La seduta è l'insegna della volatilità per le borse europee, che non riescono comunque a rimbalzare dopo il passo falso di ieri legato al taglio delle stime da parte del Fondo Monetario Internazionale. Una cautela determinata in particolare dall'attesa per i verbali dell'ultima riunione della Riserva Federale Americana, che saranno diffusi in serata e che potrebbero dare ulteriori indicazioni sulla possibile stretta monetaria. A Milano, dicevamo, vanno comunque bene alcuni titoli bancari, in particolare le popolari. Banco Popolare fa più 2,3%, la BPM più 1,5%. Grazie anche per oggi Isabella, buona giornata. Buona giornata. Passiamo a parlare di Ebola. Saluto Giuseppe Ippolito, che è direttore scientifico del Lazzaro Spallanzani di Roma, in prima linea anche e non solo in Italia, come dire, nella lotta alla malattia. Ippolito, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, io vorrei capire da lei se dopo questi casi sospetti, sono 5 casi sospetti a Madrid, lo ricordiamo, e uno accertato, dobbiamo iniziare ad avere qualche preoccupazione anche da queste parti. Ma dobbiamo considerare che il caso spagnolo, l'unico caso accertato, è un caso in un'operatrice sanitaria che verosimilmente ha commesso un errore, c'è stata una falla nell'applicazione delle misure di prevenzione, nonostante non sia stata ancora identificata. È evidente che se le precauzioni disponibili, standardizzate, raccomandate all'Organizzazione Mondiale della Sanità, hanno dimostrato finora una protezione totale nei paesi occidentali. Non è vero, non è facilmente pensabile che ci sia stato un errore, che ci sia stata un'altra modalità di trasmissione. Su questo le autorità spagnole stanno indagando. Normalmente un caso fa fino a 80 contatti, quindi le persone che sono sotto osservazione, a partire dal marito, che è probabilmente la persona più a rischio in questo modo, e chi può averla assistita senza precauzioni nelle fasi iniziali della malattia, sono le persone che sono state messe in questo primo cerchio, le persone a massima attenzione, che sono 5. Sì. Le altre sono man mano a cerchi più larghi in funzione del tipo di contatto, sì, che hanno avuto. E in effetti ce ne sono una cinquantina sotto osservazione, da quel che abbiamo appreso naturalmente dalle autorità spagnole. Quindi lei dice, insomma, non ci sono preoccupazioni particolari, perché qualcuno, leggendo anche quel che dice la stessa infermiera che ha contratto Ebola, che dice ho rispettato i protocolli, ha iniziato a sospettare che Ebola potesse mutare in qualche modo, avere una trasmissione più rapida. Ma vede, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato formalmente ieri quello che gli addetti ai lavori sapevano da sempre, che non c'è nessuna mutazione di Ebola, che Ebola non è affatto mutato e quindi il virus è sempre lo stesso, è un virus assolutamente conservato, che si manifesta in una modalità con delle caratteristiche che sono più lieve di quelli in precedenza, però non c'è nessuna prova di virologia molecolare che il virus sia mutato. Un'ultima domanda proprio a proposito di questo. Vogliamo fare chiarezza una volta per tutte, Ippolito, sulle percentuali di guarigione da Ebola, specie in un ambiente protetto come il nostro, nel quale, insomma, le cure, si è identificato immediatamente il virus, arrivano subito. Ci dà un'indicazione? Ma la mortalità media oggi in Africa è intorno al 50%. È evidente che in un contesto occidentale la mortalità si dimezza. Queste sono stime, ma i casi in Occidente sono talmente limitati, non c'è esperienza di casi in Occidente, e non ci dobbiamo dimenticare che altri virus emorragici sono arrivati in questi anni in Europa e non c'è stata trasmissione agli operatori sanitari anche in casi in cui ci sono stati 300 esposti rintracciati all'interno delle strutture sanitarie. Questo caso spagnolo è un po' al di fuori di quella che è la modalità ordinaria con la quale siamo abituati a valutarlo, e per questo, come tutti i giornali riportano oggi, la Commissione europea sta chiedendo alla Spagna analisi dettagliate e chiarimenti. Allora, grazie a Giuseppe Ippolito, direttore scientifico del Lazzaro Spallanzani di Roma, e salutiamo un altro scienziato, Alberto Di Aspro, che è direttore di nanofisica dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Di Aspro, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, noi l'abbiamo brutalizzata, visto che siamo dei giornalisti. Abbiamo detto che il Nobel per la chimica va a due scienziati americani e uno rumeno. Le loro scoperte sono alla base dell'invenzione di un super microscopio. Abbiamo sbagliato, ce lo spiega... No, no, assolutamente. Diciamo, il Nobel per la chimica, per un motivo speciale, se spiego che vi racconto, va ad un super microscopio. I due scienziati americani sono Eric Bezzig e William Mörner. Lo scienziato di origine rumena, ma che lavora al Max Planck di Göttingen in Germania, e Stefanel. Con tutti e tre, sono orgoglioso di dire, ho la fortuna di dire, che collaboriamo come Istituto Italiano di Tecnologia da tantissimi anni. E il supermicroscopio è un grandissimo avanzamento nella microscopia. Si passa dalla microscopia elettronica a quella ottica, e prima stavate citando Ebola. C'è la possibilità di rendere ancora più precise le informazioni che ci sono sulla disseminazione del virus, sui meccanismi di azione, proprio usando questi tipi di microscopi. Quindi l'impatto di questi microscopi in biologia e medicina è grandioso. Enorme in biologia e medicina, e non solo, no? Non solo, sì, anche in scienza dei materiali. In qualunque applicazione aveste potuto pensare di usare un microscopio ottico, di voler conoscere nel dettaglio quello che succede nella materia. Il punto fondamentale che sviluppiamo anche l'Istituto Italiano di Tecnologia da tanti anni, e in una collaborazione mista, perché abbiamo dottorati in scambio con questi tre laboratori, questa è una cosa che ci onora moltissimo e ci fa molto piacere, ma quello che si sta sviluppando è qualche cosa che, tenendo da parte come inalterabili i meccanismi, diciamo, della fisica, quindi i limiti della fisica, introduce un elemento nuovo, fotochimico, da qui il Nobel per la chimica, che permette di ottenere un dettaglio teoricamente in maniera illimitata, praticamente limitata, ma limitata, pensate, a poter vedere e studiare direttamente il DNA o le singole proteine nelle singole cellule, dentro i tessuti e negli organi. Cioè è come, quindi, se fosse una sorta di evidenziatore, come se avessero scoperto l'evidenziatore di queste cellule, anche qua. È un grandissimo evidenziatore. Un grandissimo evidenziatore. Di Aspro, brevissimamente, in 20 secondi, ha detto che voi collaborate con questi scienziati, e ci avete collaborato perché avete creato un super microscopio anche in Italia. Anche in Italia abbiamo creato un super microscopio, è pubblicazione recente il super microscopio che permette di studiare i meccanismi di entrata dei virus negli organismi ad un livello di risoluzione che era inimmaginabile fino a pochi anni fa. Questo è addirittura un passo oltre quello, diciamo, che è stato riconosciuto con il Nobel ai tre scienziati che hanno sviluppato le tecniche di base per farlo. Allora, la ringrazio, grazie ad Alberto Di Aspro, direttore. Io e siamo veramente orgogliosi di questo. Grazie Alberto Di Aspro, direttore di nanofisica dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Traffico. Ed è il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Lavori annuali del Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, le notizie le avrete già ascoltate, proiezioni macroeconomiche col World Economic Outlook, una riduzione delle stime di crescita globale nel 2014 più 3,3%, prima doveva essere forse anche il 4%, area euro, cresceremo pochino nel 2014, più 0,8%, senza contare quelli meno fortunati come l'Italia, che forse cresceranno anche meno, se cresceranno del tutto. Per l'Italia, infatti, la stima per il 2014 è per una contrazione dello 0,2%. Per gli Stati Uniti una crescita media del 2,2%. Vorrei però oggi affrontare un tema nel contesto macroeconomico, non, diciamo, di natura tecnica, ma di natura